Canto XIV della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto XIV. Poiché la carità del natio loco mi strinse, raunai le fronde sparte e rendelle a colui che era già fioco. Indi venimmo al fine ove si parte lo secondo giron dal terzo, e dove si vede di giustizia orribil arte. A ben manifestar le cose nuove, dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove. La dolorosa selva l'è ghirlanda intorno, come il fosso tristo ad essa. Quivi fermammo i piedi a randa a randa. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che da piei di Caton già fu oppressa. O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei. D'anime nude vidi molte gregge che piangean tutte assai miseramente e parea posta lor diversa legge. Supin giaceva in terra alcuna gente, alcuna si sedea tutta raccolta ed altra andava continovamente. Quella che giva intorno era più molta, e quella men che giaceva al tormento, ma più al duolo avea la lingua sciolta. Sovratutto il sabbiun, d'un cader lento, piovean di fuoco dilatate falde, come di neve in Alpe senza vento. Quale Alessandro, in quelle parti calde d'India, vide sovra lo stuolo fiamme cadere infino a terra salde, perché provvide a scalpitar lo suolo con le sue schiere, perciò che il vapore me si stingueva mentre che era solo. Tale scendeva l'eternale ardore, onde l'arena s'accendea, com'esca sotto il focile, a doppiar lo dolore. Senza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi, or quinci, iscotendo da sé l'ardura fresca. Io cominciai: «Maestro, tu che vinci tutte le cose, fuor che di monduri, ch'all'entrar della porta incontro uscinci, chi è quel grande che non par che curi lo incendio e giace dispettoso e torto, sì che la pioggia non par che il maturi?» E quel medesmo che si fu accorto ch'io dimandava al mio duca di lui, gridò: «Quale io fui vivo, tal son morto. Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui crucciato prese la folgore acuta, onde l'ultimo dì percosso fui, e se gli stanchi gli altri a muta muta in mungibello alla fucina negra, gridando: «Buon Vulcano, aiuta, aiuta!» sì come il fece alla pugna di Flegra, e me saetti di tutta sua forza non ne potrebbe aver vendetta allegra». Allora il duca mia parlò di forza tanto ch'io non avea sì forte udito: «O Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, se tu più punito, nullo martiro, fuor che la tua rabbia, sarebbe al tuo furor dolor compito». Poi si rivolse a me con miglior labbia, dicendo: «Quel fu un de sette regi ch'Assiser tebe, ed ebbe, e par che gli abbia Dio in disdegno, e poco par che il pregi. Ma, com'io disse lui, i suoi dispetti sono al suo petto assai debiti fregi. or mi vien dietro, e guarda che non metti ancor di piedi nell'arena arsiccia, ma sempre al bosco li ritieni stretti. Tagendo, divenimmo là, vespiccia fuor della selva, un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del bulicame esce il ruscello, che parton poi tra lor le peccatrici? Tal per l'arena giù s'engiva quello. Lo fondo suo ed ambo le pendici fatteran pietra e i margini da lato, perch'io m'accorsi che il passo era lici. Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta lo cui sogliare a nessuno è serrato, cosa non fu dagli tuoi occhi scorta notabile com'è il presente rio, che sopra sé tutte fiammelle ammorta. Queste parole fur del duca mio, perch'io pregai che mi largisse il pasto di cui largito m'avea il disio. In mezzo al mar siede un paese guasto, dissegli allora, che s'appella Creta, sotto il cui rege fu già il mondo casto. Una montagna v'è che già fu lieta d'acque di frondi, che si chiama Ida, ora è diserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliuolo, e per celarlo meglio, quando piangea, vi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, che tien volte le spalle in verdamiata, e Roma guarda sì come suo speglio. La sua testa è di fin oro formata, e puro argento son le braccia e il petto, poi è di rame infino alla forcata. Da indi in giuso è tutto ferro eletto, salvo che il destro piede è terra cotta, e sta su quel più che n sull'altro eretto. Ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta d'una fessura che lagrime goccia, le quali accolte foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia, fanno acheronte, stige e flegetonta, poi se van giù per questa stretta doccia. Infin là, ove più non si dismonta, fanno cocito, e qual sia quello stagno, tu il vedrai, però qui non si conta. Ed io a lui, se il presente rigagno si deriva così dal nostro mondo, perché ci appar pure a questo vivagno? Ed egli a me, tu sai che il luogo è tondo, e tutto che tu sii venuto molto pure a sinistra giucando al fondo, non s'è ancor per tutto il cerchio volto, perché se cosa n'apparisce nuova, non dee addur maraviglia al tuo volto. Ed io ancor, maestro, ove si trova Flegetonte e Letè, che dell'un taci e l'altro di che si fa desta piova? In tutte tue question certo mi piaci, rispose, ma il bollor dell'acqua rossa dovea ben solver l'una che tu faci. Le te vedrai, ma fuor di questa fossa, là dove vanno l'anime a lavarsi quando la colpa pentuta è rimossa. Poi disse, omai è tempo d'ascostarsi dal bosco, fa che di retro a me vegne, li margini fan via che non sonarsi, e sopra loro ogni vapor si spegne. Fine del canto 14.